Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Signorina, quel signore dice che ha un forte mal di stomaco. Vuol sapere se lei può aiutarlo. Oh, certo, per favore gli dica di star tranquillo. Io tornerò appena possibile con delle medicine. State tranquilla, compaga, quella madonna subito e ti porto tutto cosa. Ma che traduce che mia mamma mi ha mandato all'istituto bellistico linguistico? Ma voi tenete ragione, signorina, ma questo non si sente bene, non capisce niente, sta ragione. Che vi dico? Ci porta gente sugli aerei ormai. Cara Deborah, buongiorno. C'è certa gente sugli aerei. Hai riconosciuto il film? Lo so che l'hai riconosciuto. È un grande classico. Sì, l'aereo, infatti, l'aereo più pazzo del mondo. Devono aver pensato di essere finiti nel set di una ripresa dell'aereo più pazzo del mondo anche alcuni passeggeri di una linea portoghese, perché oggi abbiamo appreso da una sentenza della Corte di Giustizia Europea, cara Deborah, che si sono trovati a bordo. Tra l'altro interviene molto generalmente sul tema dei voli e l'attività delle compagnie aeree, e non sempre, come dire, favorevolmente nei loro confronti. Che cosa dice questa volta? Soprattutto che cosa è successo? Perché magari partiamo anche dall'antefatto. Guarda, la cosa più, diciamo, intrigante che possiamo raccontare è che praticamente su questo volo c'era un passeggero, un volo partito da Lisbona, destinazione Fortaleza, c'era un passeggero che ha morso un altro passeggero, ha aggredito altri passeggeri, ha aggredito anche l'equipaggio di cabina che aveva tentato di calmarlo. Insomma, un passeggero abbastanza molesto, così lo definisce la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Questo passeggero molesto naturalmente ha causato un cambiamento di programma per quanto riguarda il volo, perché l'aereo ha dovuto essere dirottato verso Las Palmas. L'hanno sbarcato, finalmente hanno ripreso il volo per Fortaleza, però con un ritardo di 4 ore e 18 minuti. Ora tu dirai, ma perché la Corte di Giustizia Europea si deve occupare di un passeggero che morde gli altri passeggeri? No, perché più che altro la Corte di Giustizia si deve occupare di tutti gli altri che sono stati danneggiati da questa situazione, credo. Esattamente, sei molto perspicace. E infatti uno degli altri passeggeri che è stato danneggiato da questo ritardo ha presentato una richiesta di compensazione pecuniaria, insomma voleva un rimborso per ritardo prolungato. Allora, la sentenza della Corte di Giustizia ha detto, vabbè, però questo comportamento molesto può costituire una circostanza eccezionale tale per cui la compagnia è esonerata dall'obbligo di compensazione pecuniaria. Quindi niente rimborso, insomma, perché non è così comune che qualche passeggero voglia mordere altri passeggeri sull'aereo. Però, quindi, nel senso che appunto è una circostanza eccezionale, effettivamente non riusciamo a dare torto agli eurogiudici. Però gli eurogiudici hanno anche detto. Sì, gli eurogiudici hanno anche detto un'altra cosa. Hanno detto: attenzione, però, perché tra le misure ragionevoli che la compagnia aerea deve adottare per sottrarsi a questo obbligo di compensazione, quindi per poter non rimborsare, allora deve prevedere anche l'imbarco dei suoi passeggeri nel più breve tempo possibile su voli alternativi, che siano diretti o indiretti, operati anche da altre compagnie aeree. Insomma, devono essere protetti a tutti i costi, da tutti i costi per la compagnia aerea, naturalmente, i diritti degli altri passeggeri di raggiungere la destinazione nel più breve tempo possibile, nonostante la circostanza eccezionale, cioè il morso dell'altro passeggero. Devo dire, ecco, una vicenda abbastanza inconsueta, verrebbe da dire, su cui però infatti la Corte di Giustizia, come vedi, ha trovato una decisione equilibrata. Quindi vabbè, sul morso Transeat, però se non vi sbrigate a riprogrammare il tutto e a proteggere gli altri passeggeri, non va bene, e allora non siamo d'accordo. Di che parliamo oggi? Il tema di dei viaggi, sì, insomma, il tema dei viaggi problematici è un grande classico in questo momento, come sapete, anche perché c'è tutta la questione dei rimborsi e dei voucher, delle persone che non possono viaggiare, che non potranno farlo, che hanno rinunciato a viaggiare a causa del Covid. Sarà un tema sul quale torneremo prossimamente anche su vostro suggerimento. Il tema invece che affrontiamo oggi, essendo giovedì, è anche questo un grande classico di questa giornata della settimana, perché è investire in formati. Allora, oggi le borse, Mauro, sono molto impermalite da quello che ha detto ieri Mr. Jerome Powell, il capo della Banca Centrale Americana, che intanto pace. Ha detto: i tassi stanno a zero e rimarranno così fino a tutto il 2022, fino a quando non vedremo dei segnali abbastanza o più o meno convincenti di un ritorno alla ripresa economica convinta, un risveglio dell'occupazione. La disoccupazione americana è schizzata alle stelle, come è noto, e quindi primo tema questo. Però la Federal Reserve ha anche detto: noi siamo molto preoccupati di un ritorno, di una recrudescenza del contagio, più di 2 milioni di colpiti appunto negli Stati Uniti, grande preoccupazione anche per la situazione in Sud America. E quindi questo stamattina ha fatto subito ingranare alle borse europee una marcia indietro vigorosa. Erano reduci da un rally forse non tanto giustificato, ma tra l'altro questo rally, e questo è un altro tema che sarà interessante chiarire questa mattina ed analizzare e leggere, la tecnologia americana nonostante tutto corre, siamo su livelli record mai visti per il Nasdaq, l'indice appunto tecnologico americano, grazie al balzo dei assoluti protagonisti di questo settore: Apple, Amazon, Microsoft, Facebook e tutta la compagnia cantante. E quindi davvero oggi abbiamo molti temi da analizzare, soprattutto per cercare di capire se e come investire da qui in avanti, oppure tenere il fieno in cascina, come per la verità sono tornati a fare molti italiani, perché anche questo è un altro tema interessante. Compare oggi, poi ne parleremo sulle pagine appunto dei giornali, in particolar modo sul nostro, sul Sole 24 Ore. Stanno continuando a lievitare i conti correnti, nel senso la liquidità detenuta sul conto corrente, quindi insomma veramente tante sfaccettature di questa crisi, e anche questa stamattina sarà al centro del nostro programma. Allora, questo è lo scenario nel quale ci muoviamo, scenario turbolento, come ha ricordato Deborah, questi giorni caratterizzati da segno meno, mentre altri giorni erano stati caratterizzati da forti crescite dei listini. Tutto questo, in tutto questo ci sarà Virgilio, ci sarà guida Lorenzo Alfieri, che è Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, che è già collegato con noi. Allora ne approfitto intanto per salutarlo e dargli il bentornato a Due di Denari. Bentornato, dottor Alfieri. Grazie, buongiorno a tutti. Cara Deborah, di là dal vetro sono già schierati e in posizione sia Peter Bescapè che Luca Cremonese. Sappiamo che su di noi vigila, attento, sempre Marco Lombardo, quindi tutto è pronto per cominciare con il nostro giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Questa la dico io Deborah, ti spiace? Che mi sembra un po' no, l'arte. Guarda, no, non mi offende, io ti lascio ai tuoi rapporti, alle tue relazioni consolidate con i signori dell'Agenzia delle Entrate, prego. L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il contributo a fondo perduto. Sappiamo che è una delle novità più attese, che sta nel decreto legge rilancio, il decreto legge 34, sta nell'articolo 25 di questo decreto legge per la precisione. Ieri è stato diramato, è stato annunciato, devo dire, proprio a fine giornata dall'Agenzia delle Entrate, è stato diramato un provvedimento firmato dal direttore, da Ernesto Maria Ruffini, con i passi che sono necessari per richiedere, ottenere il contributo a fondo perduto a favore di imprese e partite IVA che sono state colpite appunto dalle conseguenze economiche del lockdown. Il provvedimento ha il modello per fare la richiesta, modello che potrà essere predisposto e inviato dal primo pomeriggio del 15 giugno. Questi mi sembrano i dati più interessanti. Ci si potrà avvalere anche di un intermediario, si potrà usare il canale telematico Entratel, oppure ci sarà una procedura web che l'Agenzia delle Entrate sta per attivare all'interno del portale fatture e corrispettivi. Abbiamo anche una robusta spiegazione sul sito del Sole 24 Ore, tutti i particolari in norme e tributi da oggi e nei prossimi giorni, quindi restate, come dire, sintonizzati con il Sole 24 Ore per l'accesso al contributo a fondo perduto. Sole 24 Ore, Radio 24, come sempre attenti anche a questo tipo di provvidenze. Deborah. Allora, tra le varie situazioni di emergenza che si sono aperte in questo momento, ogni giorno ne scopriamo una nuova. E questa mattina vi raccontiamo della vicenda nella quale si trovano alcune migliaia di persone, secondo la Federconsumatori, pazienti rimasti senza cure, ma anche con le rate da saldare, dopo che la catena odontoiatrica Dentix Italia, 57 cliniche in tutto il paese, ha chiuso i battenti con l'emergenza Covid. Se in Spagna, secondo le notizie della stampa, la casa madre ha presentato un'istanza di prefallimento, in Italia invece l'azienda non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma ci sarebbe solamente un comunicato molto striminzito sul sito dell'azienda che dice: stiamo valutando attentamente cosa è meglio fare. E questo commento è firmato appunto dal fondatore dell'azienda, lo spagnolo Ángel Lorenzo Muriel. Nel frattempo, intanto, le saracinesche dei vari punti di queste cliniche sul territorio sono abbassate, i telefoni sono muti, un'associazione dei consumatori appunto sta intervenendo sulla vicenda, come dicevamo è Federconsumatori, ed è il responsabile del Dipartimento Salute Fabrizio Ghidini che ha denunciato questo caso, sta offrendo assistenza a tutti i pazienti che non solo appunto, come dicevo, sono rimasti senza cure, ma siccome sono cure che possono essere offerte pagando a rate e quindi prendendo sostanzialmente un prestito erogato, credo direttamente dalla stessa clinica, no, anzi da due società di credito al consumo, due finanziarie, Cofidis e Deutsche Bank, che sembrerebbero essere le principali appunto con le quali la catena lavorava, ecco che insomma oltre al danno c'è anche la beffa, e quindi anche questa una situazione che dovremmo continuare a monitorare attentamente. Per il momento nessuno risponde, nessuno dà una risposta, se non con l'eccezione dell'associazione dei consumatori, alle vittime di questa vicenda, e peraltro credo che abbiano chiesto anche un incontro con il ministro della salute Roberto Speranza, a cui ci mancava solamente questa, direi, in questo periodo. Devo dire, Mauro, che ha già abbastanza pensieri il ministro Speranza, però aggiungerà anche questo, anche perché Ghidini, cioè il responsabile appunto, come ricordavi, del Dipartimento Salute di Federconsumatori, ha detto: i fallimenti di queste catene odontoiatriche cosiddette low cost sono ricorrenti. Ecco, questo tanto per precisare in quale atmosfera si potrà svolgere l'incontro con il ministro della salute Roberto Speranza. Diciamo, le circostanze in cui ci troviamo ancora, con anche delle difficoltà a organizzare eventi dal vivo, non fermano però gli eventi ai quali è possibile partecipare per informarsi ad esempio in materia di risparmio, cara Deborah, perché Assogestioni, per esempio, in attesa di realizzare la sua 11ª edizione del Salone del Risparmio, ha organizzato un ciclo di incontri live streaming, insomma, che si possono vedere da remoto, dal computer. Incontri dedicati ai principali temi di interesse per il settore. Quindi un modo anche per dare continuità al Salone del Risparmio, che, come sappiamo, per quest'anno è stato sospeso a causa del lockdown. Il 15, cioè lunedì prossimo, il 16 giugno, le persone possono registrarsi già a due eventi che si terranno in queste due date. Il sito è eventi.salonedelrisparmio.com. Il 15 giugno dalle 11 alle 13 la conferenza si intitola PIR, il risparmio al servizio dell'economia reale, quindi un tema, come dire, che ha avuto una grande popolarità, poi un grande calo di popolarità e quest'anno sta cercando un rilancio. Peraltro l'incontro rilascia anche crediti formativi, lo dico a beneficio dei professionisti del settore. Poiché si svolgerà dalle 11 alle 13, vi ricordiamo che tutte le nostre puntate, se non potete seguire Due di Denari dalle 11 alle 12, potrete recuperare la puntata in podcast dal sito di Radio 24, www.radio24.it, o anche dal Facebook, ad esempio, dove potete ritrovare anche il video della puntata. Il 16 giugno, il giorno dopo, una conferenza dal titolo Una carriera nel risparmio gestito, come far fruttare il tuo capitale umano, ottenere uno stage in una società di gestione. È un incontro dedicato ovviamente a laureandi, neolaureati che avranno l'opportunità di svolgere appunto uno stage in una società di gestione del risparmio e iniziare anche una carriera. Ci sono 15 aziende che hanno messo a disposizione 40 stage. Vi ricordo il sito eventi.salonedelrisparmio.com. per caricare invece il curriculum vitae, il sito è www.iltuocapitaleumano, così come l'ho detto, senza punti né interruzioni varie, iltuocapitaleumano.it. Questo per l'incontro del 16 giugno dalle 10.30 alle 12. Deborah. Sicuramente non mancheranno i professionisti che parteciperanno a questo incontro di parlare anche di un altro grande tema che per la verità era già al centro della nostra attenzione da molto tempo, ma adesso ci ritorna di prepotenza perché il lockdown, caro Mauro, starebbe gonfiando i conti correnti, ma non è questa esattamente una notizia positiva. Intanto le imprese italiane stanno aumentando la liquidità sui depositi bancari per una cifra che negli ultimi mesi è arrivata a quasi 20 miliardi. Le famiglie l'hanno aumentata di 34,4 miliardi, ma non è che hanno trovato sugli alberi questi soldi. Per la verità, questo aumento di liquidità sui conti deriva anche dal fatto che imprese e famiglie hanno si sono attivate appunto per cercare intanto di approfittare di tutte le iniziative che il governo ha messo in campo per fronteggiare la pandemia. Quindi banalmente il fatto di aver sospeso per molte famiglie il mutuo approfittando della moratoria in corso significa avere un po' più di liquidità sul conto corrente, ma per fronteggiare evidentemente altre emergenze che si sono palesate in questa fase. Per cui insomma sono dati che come sempre colpiscono di primo acchito, ma poi vanno analizzati attentamente e non sempre quando sembrano positivi hanno invece un'accezione positiva. E questo direi che sarà anche il caso di affrontare appunto come tema, sarà il caso di affrontarlo con il nostro ospite, ma non prima però di avere anche oggi aperto lo sportello di Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, sui rimborsi l'agenzia praticamente mi vuole dare un voucher da usare per 12 mesi per una corsiera costa, non mi vuole rimborsare e io vorrevo anche un voucher però di agenzia da usare non necessariamente con la costa crociera, quindi però mi obbligano a prendere un voucher costa crociera, è normale? Grazie. Non solo Mauro, tra l'altro mi risulta che peraltro addirittura per chi accetta il voucher da riutilizzare con la medesima compagnia magari più avanti, in realtà qualcuno dice già sì, ma se questo voucher poi lo utilizzi l'anno prossimo probabilmente ci sarà anche un sovrapprezzo perché chissà quanto costeranno i servizi. Insomma, ci sono diverse cose strane che si stanno verificando e quindi ribadiamo che ancora una volta sul tema del viaggio mancato e voucher che non accontenta nessuno, bisognerà tornarci sicuramente. E allora nel frattempo andiamo ad occuparci più da vicino dei nostri risparmi. I temi li avete ascoltati dal quadro che ha ricordato Deborah pochi minuti fa. Vi ricordo invece io i numeri per i quali potete entrare in contatto con noi. 800 24 00 24 è il numero verde. Invece SMS e WhatsApp possono arrivare tramite il numero 349 238 6666. Tutto ciò premesso, cara Deborah, investire informati. Investire informati. Guarda qua, più ti informi più ti confondi, direi Mauro, perché qui sembra tutto bello, almeno fino all'altro giorno in borsa sembrava assolutamente tutto superato perché gli indici internazionali avevano ripreso a correre. Ce n'è uno peraltro che ha una corsa che non si arresta. Ieri a Wall Street Apple, per esempio, che è uno dei titoli più rappresentativi del Nasdaq, l'indice della tecnologia americana, non solo corre, ma ieri sera ha sfondato i 1.500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. È la prima società americana a superare questa soglia. Tu pensa che vale quanto questa società il PIL della Spagna? E quindi questo insomma ci dà la misura delle anomalie che si stanno manifestando sul mercato in questa fase. Ieri sera la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha detto